come potrei mai descriverti? La mia vita senza te, come un quadro senza immagini, che cerca i suoi colori in sé. Nella notte che non riesce più a distinguersi, come potrei mai spiegarti che non riesco proprio più a vivere un istante senza. Io mi confondo, non so perché, vedo allo specchio ancora immagini di te. E corro nel vento, non so dove arriverò, cosa è successo fra noi, lo sai che non lo so, ancora non. Come potrei mai descrivere quelle sensazioni che io provo da quando vivo senza di te. E ancora io mi sono perso, non so perché, non ha più senso la mia vita senza te. E passa il tempo, non so se mai mi ritroverò, cosa è successo ancora, lo sai che non lo so, ancora non lo so, lo sai che non lo so, ancora. Thank you.